al milionario, che di tutto, ma proprio tutto, il proprietario. L'ho conosciuto un po' per caso su, e m'ha invitato a casa sua. Piscina mega grande, con acqua in quantità, e ci potrebbe fare il bagno una città. Lui ci infila i piedi con certa cupa gravità. Non so perché, non so perché ha fatto fuori tutte le sue mogli. Fermo questo tipo mi racconta che da vicino gli mancava la pagnotta. Ora le opinioni, anche le più banali, quattro colonne mega larghe sui giornali. Aveva banche e navi, peccati e tristezze, ma le ricchezze lui non lasciava mai. Passando i giorni a contare il suo denaro, sommava e divideva finché s'addormentava. Non poté mai sfuggirgli al suo dio, perché lui si eccitava quel tintinnio. Nei suoi occhi bruciava il fuoco, freddo e distante si perdeva nel vuoto. È morto, è morto, il milionario è morto. Nell'incidente perse la sua vita e poi sua adorata Rolls Royce. Io lo so, ed io lo so, che tutti i morti sono uguali. Ma non so, ma non so, credo che quell'uomo, quell'uomo a suo modo, del denaro fiero, cesso d'essere un triste prigioniero. Oh, il milionario è morto. Oh, il milionario è morto. Oh, il milionario è morto. Oh, il milionario è morto. Oh, il milionario è morto. Yeah.